secondo te a noi mo ce serve di lavorare per quelli? Sì. Stiamo a fare un favore allo Stato, Fred. E a me non me va di fare i favori a chi non mi sei inculato per una vita, a chi mi fa morire di fame. E se mi ribello mi sbatte pure al gabbio, a me dello Stato non me ne frega un cazzo. Vengo dalla Romagna come la Minetti e Fellini. Il secondo ha fatto Boccaccio, la prima ha fatto Bocchini. Spero in culo i Salvini, un rumeno sordo. Così anche se gridi non ti sente stronzo. Vedo mafia capitale, ma qui non si capisce. Mi stupisco ancora che qualcuno si stupisce. Passano gli anni e questo mutuo non si estingue. Vedo lavoro all'estero e faccio corsi di lingue. Qua chi fa le leggi spesso è il primo che delinque. L'Italia è un parco giochi pieno di siringhe. L'Italia va a palla e finisce in testa a coda. Come sempre la colpa è di quello che manovra. Una fossa comune per milioni di persone, una bara unica, la cassa integrazione. Onorevole Ministro, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. La seduta è sospesa. A coloro che mi odono io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. Siamo partiti cantando Forza Italia. Oggi messi peggio dell'Ucraina. Batterie di stronzi in Parlamento con l'accelere che cresca un piglio. Figli di puttana che ci mandano al macello. Tutti seduti al loro posto, sul loro trono. In testa pure una corona d'alloro placata d'oro. China la testa al passaggio di Cesare. Con in mano la lira per aspirare la polvere. Viviamo tra gli eccessi, processi e sentenze. Vogliamo la giustizia, ma quella ancora niente. Banche con il doppio fondo inside man. Politici coi soldi le Seychelles. Yes we can. Ora dimmi dove sta la tua speranza. Se anche il libanese mi chiede l'elemosina. Qui pure i criminali stanno al verde. Riforme che non partono e lame pronte sulle nostre teste. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate, coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Non difendete la schiavitù, ma la libertà. Una città ricolma di affitta si vende, sì. E grazie ad Equitalia anche dei morsi. La policy è fatta pure dai comici. Mentre chi ci fa più ridere sono i politici, i prodigi. Quelli che ci facevano pogare alle serate al mare. Ora pochi con i cellerini ma per protestare contro qualunque mancanza, contro la casta. Poi sopprimi tutto toccandoti su una rivista con la Letizia Casta in costume. La fuga della dignità da un paese senza cume. L'amore per lo stivale se questo calcia un pallone. O nel talk show nei piedi di qualche puttanone. Ed è così, poi non sentiamoci feriti se nel culo ci timbrano il marchio Made in Italy. Made in Italy. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse. Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti! Avete 30 anni che facciamo le leggi senza bisogno di scriverle. E siamo noi che le facciamo rispettare. Qui lo Stato sono io.